Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana e nuovo appuntamento insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto da Francesco Galante, ma voglio io porgere un saluto al presidente Carlo Garofolini. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, oggi siamo al giorno 14 di dicembre e quindi c'è impellente una tassa da pagare. Eh sì, purtroppo una tassa o anche due, a seconda che siamo proprietari di prima o di seconda casa, e qua si parla proprio di IMU o di TASI. La scadenza, ricordiamo a tutti gli ascoltatori, è per il 16 dicembre e nell'occasione di questa data dovremo saldare il secondo acconto. E qui, come al solito, alla vigilia di quella che è una scadenza importante che interessa un po' tutti gli italiani, parliamo quindi milioni di persone chiamati ad accodarsi o a collegarsi ai conti online delle banche, dovranno comunque predisporre il modello ed effettuare il relativo calcolo. Ecco, la scadenza è per dopodomani, quindi mercoledì 16. Sì, la scadenza è proprio il 16 e ricordiamo che il pagamento va effettuato tramite il modello F24, però ricordiamo che purtroppo alla vigilia di quella che è una tassa che il governo ha annunciato che il prossimo anno non si dovrà più andare a pagare, e parliamo quindi della tassa sulla prima casa, certamente anche qua i comuni stanno mettendoci del suo, perché se è vero che il 16 dicembre scadrà la seconda rata, quindi il saldo, è vero che ad oggi ci sono ancora 844 comuni che non hanno deliberato le aliquote in tempo, e per cui le persone non potranno tener conto quello che è stato la prima rata in riferimento appunto del saldo, che potrà avere delle variazioni rispetto a giugno, precisando che queste variazioni ci sono state per molti comuni, perché essendo che questi poi riceveranno dei trasferimenti dallo Stato per effetto delle somme che hanno recuperato dall'IMU o dalla TASI, tutti i comuni stanno un po' correndo a rialzare quelle che sono le aliquote che inizialmente avevano previsto. Beh, questa cosa che mi dici mi fa rabbrividire, cioè a due giorni ci sono ancora dei comuni che non hanno deciso l'aliquota. Diciamo che ci sono dei comuni che hanno deciso un adeguamento dell'aliquota successivamente alla data del 16 giugno, e per cui chi pensa che il saldo sia calcolato sulla base dello stesso importo dell'acconto deve fare una verifica, perché ad oggi, come detto, ci sono 844 comuni che non hanno deliberato l'aliquota nei termini previsti e che oggi quindi possono aver approvato delle variazioni che non sono delle variazioni che stanno approvando oggi o domani, ma sono delle variazioni che possono aver approvato entro la data del 30 settembre 2015, ma che però rispetto all'acconto del 16 giugno certamente le persone possono risultare ancora ignare. Ho capito, quindi la cosa da fare è andare a informarsi se il comune ha cambiato le aliquote nel corso, insomma, di questi ultimi mesi per eventualmente pagare la giusta quota al saldo della TASI. Credo che questa segnalazione andava assolutamente fatta. Poi c'è la cosa stravagante, diciamo, per cui alcuni cittadini, per esempio nel Padovano, ad alcune famiglie arriva la TASI a casa, il comune la spedisce, ad altre proprio nulla, e quindi uno si può anche dimenticare. Questo purtroppo è il solito dramma all'italiana, e poi scopriremo che l'ultimo giorno o il giorno della scadenza ci saranno come solito le prese d'assalto da parte dei contribuenti, e chiaramente tutte quelle che sono poi le criticità determinate da questo caos sicuramente ne vedremo delle belle. Ricordiamo agli ascoltatori un attimino chi deve pagare l'IMU, che la devono versare tutti i proprietari o coloro che sono titolari di un diritto reale di godimento come l'usufrutto o chi ha il diritto d'abitazione, quindi parliamo di immobili tenuti a disposizione o anche quelli affitti o sfitti o dati in uso gratuito a figli o a parenti di primo grado, mentre la TASI non è solo legata al possesso ma anche alla detenzione degli immobili, quindi vale solo per le prime case, eccetto le categorie A1 che sono gli immobili signorili, la 8 le ville, o le categorie A9 che sono i castelli o i palazzi. Ricordiamo che appunto per questi due tipi di tasse ci sono anche delle detrazioni diverse che tengono conto non solo della prima casa, ma tengono conto anche di quella che è il numero dei figli che possono risultare a carico, e anche questo è una cosa che bisogna verificare comune per comune, perché a seconda delle aliquote che ogni comune ha deciso di determinare ci possono essere delle variazioni. Ecco, quindi la cosa da fare è informarsi presso il proprio comune, andare a vedere in internet, insomma, penso che ormai ogni comune nel sito vada a scrivere queste cose che sono fondamentali per evitare telefonate e perdite di tempo incredibili. Quindi utilizzate internet per questo e buona tassa da pagare, speriamo che sia bassa, ve lo auguro di cuore. Ecco. E un'ultima cosa, ricordiamo che la tassa riguarda anche le persone che sono in affitto rispetto a che una volta invece non era così, quindi l'imposta va pagata per una misura che varia tra il 10 e il 30% a seconda che qua delle delibere comunali per coloro che risultano in affitto, quindi qua parliamo anche di questo, di una novità. Va bene, grazie quindi a queste segnalazioni e precisazioni da parte del presidente dell'Adico, Carlo Garofolini, che ritroveremo anche fra qualche giorno. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.